Le 6:30. Ora si appiccia un cannone e Zanzara tutto fuoco. Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Hey! A Catania sapo come si dice? Come si dice? Cama può sfogare. Cama può sfogare. Però se ci sta un stronzo come quello che interviene facendo delle battutine, capite, alla rete, non ho capito, che volesse fare? Cioè se ne zitti, te ne sta qua, ti faccio una faccia come un pallone. Luciani, volevo dirti, quando sono stato in Germania, a Dortmund, ci stava, cioè, ho avuto un paio di amici, diciamo, poi stavo un professore che insegnava i bambini italiani e veniva a casa al consolato italiano e ci ha portato in una discoteca a quell'epoca e ci stava anche un ragazzo di colore. Ci siamo ritirati e ci siamo imboscati ognuno con queste ragazze. Subito dopo, ma nemmeno una mezz'oretta, questa ragazza che stava con il ragazzo di colore venne nella stanza dove stavo io con l'altra ragazza tedesca. Stavo già scopando con quella lì, a Dortmund, e io gli chiese in tedesco, perché si dice, ma esiste, cos'è, no? E lei dice, il ragazzo è Dom Schlafen. Allora in quel momento io non lo feci per me stesso, lo feci per l'Italia. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! David, ti comunico che se c'è un miserabile in tutta questa situazione sei tu! Sei tu! Miserabile! Nice girls and a vicious smile. She's always in denial. Fly high and you won't get touched. She's never asked for much. One more for all time's sake. Let me defeat the lane. Take it to get it right. She wants a chance. Ci sei David? Non c'è, benissimo. Allora a Padova, città di Parenzo, pare che sia stata data in sposa un 35enne, ovviamente musulmani, una bambina di 9 anni. E lui non ha aspettato le nozze, l'ha violentata, l'ha mandata in ospedale con un'emorragia. E a decidere il futuro, il destino di questa ragazzina sono due famiglie, così a tavolino marcato della Lega, sentiamo. Nel Padovano una famiglia di musulmani ha dato in sposa la loro figlia di 9 anni a un altro musulmano di 35 anni. La bambina è stata ricoverata all'ospedale per lesioni gravi agli apparati e all'apparato genitale. Io ho un solo ed unico pensiero. Chi a 35 anni sposa una bambina di 9 anni è un pedofilo di merda e come tale deve avere l'ergastolo. A Messina, dunque andiamo dall'altra parte dell'Italia, a Messina, Cateno De Luca è libero e parla, era libero già da ieri in realtà, e parla, minaccia sfracelli contro la mafia giudiziaria. Cateno De Luca è stato eletto al Parlamento della Sicilia. Cateno carta igienica, tutte le montagne di documentazione che è stata utilizzata per arrestarmi. Ma non, questa come si chiama? Per me si chiama mafia giudiziaria, me ne prendo la responsabilità, va bene, perché io combatto tutte le mafie. E allora non è possibile che ci siano dei palazzi dove, se ti permetti di dire hai sbagliato, ti arrestano. Ma che, dove siamo arrivati? Questa è utilizzare la lupara. Perché ci sono i ladri in politica, no? Ci sono i disonesti nella chiesa e ci sono anche i disonesti nei palazzi di giustizia. E che cazzo c'è di male? Ecco qual è la questione. Io voglio ringraziare la mia difesa e in modo particolare il professore Carlo Daormina, che non solo mi ha supportato ma mi ha sopportato, ve lo dico molto francamente, e qui io lo devo ringraziare, perché se oggi ottengo per l'ennesima volta giustizia è perché ho avuto un collegio di difesa che realmente ha capito quali erano anche le ragioni profonde degli attacchi che ha subito De Luca. David, ci sei? Eccolo qua. Allora, hai capito che succede a Padova? Sì. Hai capito che succede a Padova? Una bambina musulmana di 9 anni data in sposa a un uomo di 35, anche lui musulmano. Va tutto verificato. Ci stiamo prendendo del tempo con una serie di esperti per verificarlo. Sì. Ho fatto le mie verifiche per ora, non ho avuto dei riscontri. Cioè, secondo te non è verificata la cosa, non è sicura al 100%. Se è vero, è una cosa gravissima, deve intervenire immediatamente nell'ordine la magistratura, deve intervenire la polizia, le forze dell'ordine, ma ovviamente, perché sarebbe un reato gravissimo, va verificata la notizia. Però io non ho elementi in più oltre a quelle che hai tu, caro. Se per caso Matteo Salvini o qualche altro ascoltatore della Zanzara, no, ascoltatore, dici? Telefonista, scusa, qualche noto giornalista d'inchiesta Marcato, che credo sia un consigliere provinciale della Lega Nord. Regionale. Benissimo, così autorevole consigliere regionale della Lega Nord, aspettiamo appunto denunzie circostanziate. E mi sembra che hai un po' di sospetti su questa storia, tu hai un po' di sospettini, un po' di sospetti ce l'hai, dai, un po' di sospetti. Ma guarda, mi stanno arrivando proprio in questo momento peraltro dei messaggi da parte del signor Piccardo, che uno può valutare, che dice Piccardo? Sulle cose, no, le cose cosa che dice Piccardo? Israele, cosa dice l'islamico Piccardo? Vabbè, non però ce ne frega niente, che dice? Tutto. Fonti vicine agli investigatori hanno smentito categoricamente, dice Piccardo, sia il fatto che l'apertura di un fascicolo in procura. Allo stesso modo è destituito di ogni fondamento anche il fatto che la piccola sia stata accolta in una delle stanze allestite nel comando provinciale di Padova all'interno del progetto stanza tutta per sé dedicata alle violenze di genere. Fonti accreditate, prosegue Piccardo, confermato che le stanze allestite sono già state utilizzate per gestire casi di maltrattamento. Vabbè, comunque altre fonti invece ci confermano la storia, caro Piccardo, capito? Caro islamico Piccardo. Fonti giornalistiche locali ci accreditano assolutamente come vera la storia di questa musulmana di 9 anni, questa bambina data in sposa e poi successivamente violata da uno di 35, cosa che io ritengo altamente credibile, devo dirti la verità, altamente credibile come storia in generale, penso che sia credibile, naturalmente non appartiene a tutto l'Islam, ma certamente a una frangia dell'Islam può appartenere. Ma volevo far ascoltare di nuovo a tutti quelli che sono con noi una frase detta dal prete Biancalani. Un prete di Pistoia, quello che ha portato gli immigrati in piscina, quello che ha fatto, che ha aperto una pizzeria agli stessi immigrati che ospita nella sua comunità, il signor Massimo Biancalani, che ieri ha detto di essere a favore della legalizzazione della droga leggera, per esempio. Ha detto anche che il tizio arrestato, il nigeriano arrestato della sua comunità, arrestato, fermato in realtà con qualche dose di marijuana, no, ma quella era per uso personale, non era per spaccio. Ma in realtà ha detto che l'Italia ha bisogno di accogliere a braccia aperte i barconi, ha detto che bisogna accoglierli, 120.000 l'anno, perché noi non abbiamo la natalità, perché noi abbiamo bisogno di loro, eccetera eccetera. Don Biancalani, lo dice lui, lo dice la demografia. Don Biancalani. No, Don Biancalani, la demografia, che è un essere, non Don Biancalani, che è un, i dati. Ma che cos'è? Non ho capito. Un essere, demografi, no, Don Biancalani. Ma che cos'è una un obbligo? Un obbligo? Studiosi, che cos'è un obbligo? Gli studiosi un obbligo? Ti dicono ma che dai, ne abbiamo su. Bisogno per ma pagare le pensioni Biancalani. Ai nostri ma non vecchi, è vero, sono che tutte, sono tanti. Tutte cazzate, vai. Vabbè. Tutte cazzate, è arrivato lì. Scusi Don Massimo, ma lei è a favore della legalizzazione della droga? Allora, io sono per la legalizzazione. Cioè, secondo lei farsi una canna non è... Cioè, tra farsi una canna e bere un bicchiere di vino non c'è tanta differenza, per esempio? Cioè, uccide più l'alcol della droga? Ma io, in realtà, ecco, si parla di canna, in realtà la vera canna oggi per tanti ragazzini e tanti giovani è l'abuso di alcol. È l'abuso di alcol, più pericoloso sicuramente. Beh, questo è un dato di fatto. Quando arrivano sui barconi dovremmo salutarli. I movimenti ci sono, voglio dire, vogliamo pensare. E dunque di, accogliamo di tutti. Delle barriere. Non no, tutti, ma no, abbiamo bisogno di loro. Anzi, secondo me, quando arrivano sui barconi dovremmo lì alzare le bandiere e salutarli, benvenuti, perché avremo bisogno di loro. Bellissimo. Noi abbiamo bisogno ogni anno di 100-120 mila persone. Perché siamo in decrescita. Dunque lei dice... Chi lavorerà nelle fabbriche, chi andrà nei campi qui a Pistoia a levare le piante d'inverno sotto la pioggia. Adinolfi ieri sera da noi, caro David. Emma Bonino, criminale. Usare la pompa di bicicletta per uccidere bambini è un crimine. Questo è disgustoso. Ha detto delle cose disgustose. Senti, disgustose. Guarda, non voglio sentire. Emma Bonino, che usa la pompa di bicicletta per uccidere bambini, per me quello è un crimine. Secondo te chi oggi pratica un aborto nel tuo mondo ideale va punito con una e va messo in galera? Non la donna, perché la donna è molto spesso inconsapevole. Vabbè. Ma chi produce materialmente l'uccisione del bambino? Sì. Io personalmente li metto in galera, sì. Ma chi pratica gli aborti va messo in galera, secondo Adinolfi. Allucinante, ragazzi. Fermi lì. La zanzara. Zanzarosi. Giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Comunque Cruciani ha ragione, Don Sbiancalano. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di questi ragazzi. Io ho bisogno di loro, ho finito l'erba, ho bisogno di voi! Così comune di Pistoia, così casa per casa, parrocchia per parrocchia, stanali uno a uno quei negri stronzi, ok? Uno a uno! E poi prendere anche quei traditori bianchi come Sbiancani, la merda di parroco, Sbiancani! Merda! Beh, vedo grande accanimento contro Don Biancalani, Parenzo, anche con frasi molto pesanti per quello che ha detto. C'è in realtà grande solidarietà, e soprattutto in quel territorio che io conosco bene, è una persona molto amata. Ci sono certamente, come tu fai spesso purtroppo notare, 4-5 stronzi che sono la minoranza rumorosa, e quindi l'immagine di questo... Invece l'Italia è un paese accogliente, un paese non buono, è un paese accogliente in cui ci si può basare su queste grandi strutture del terzo settore. Ci sono le ONG, ci sono le parrocchie, c'è una grande rete sociale, una grande rete una grande rete sociale che è pronta e che va in soccorso laddove lo Stato non arriva. A me va bene tutto, tranne il fatto che un prete si metta a dire abbiamo bisogno di 120.000 persone l'anno. Ma che cazzo ne sa lui? Ma essere persone non rompesse il cazzo, no? Lì ha espresso un'opinione, come spesso avviene. Ma va benissimo, ma per carità. Senti i demografi, professori. Dai, sentiamo abbiamo dei demografi autorevoli che ce lo spiegano. Di 120.000 ce lo spiegano l'anno. I dati, smettila, non c'entra la sinistra o i buonisti, ce lo dicono non i dati. Come tanti economisti non capiscono un cazzo. Il progressivo invecchiamento della popolazione. Allora, arriva lui. Sì, come tanti economisti non capiscono un cazzo, dai. E perché dovrebbe capire di più quell'imbecille di Donato da Varese? Perché c'entra Donato? Perché per te il parere di Donato da Varese vale di più di un grande studioso di demografia? identico. Perché? Identico. Perché? Identico. No, non è uguale. Identico. Uno ha studiato, l'altro non sa un cazzo. Uno sa, l'altro non sa. Uno dice solo un'opinione di merda, l'altro dice un'opinione supportata da dati. Questa è la differenza. Non è vero che uno vale uno. Uno non vale uno un cazzo. Solo qui uno vale uno, ma è sbagliato. Il parere di un demografo, un'opinione non vale quanto un dato di fatto. Un'opinione rimane un'opinione, se detta poi da un minchione, rimane un'opinione di un minchione. Questo è il punto. Italia! Allora, ti faccio ascoltare. Non capisco perché questo signore ancora non l'abbiano arrestato. Un signore deve finire questa storia. Si chiama Francesco De Carolis, che è un pluripregiudicato, fratello di Luciano De Carolis, ritenuto uno degli elementi di spicco della mafia a Siracusa, il quale minaccia un giornalista ancora una volta e dicendogli queste frasi. Sentiamo. Intanto mi presento, sono Francesco De Carolis, da come si vince, fratello di Luciano. Ora un gran pezzo di merda, ti dico una cosa su mio fratello, così almeno la smetti, perché la prossima volta ti vengo a cercare fino al culo di tua madre o di tua moglie e ti spacco il culo con le mani. Perché io sono bravo solo con le mani nella vita, perché sono onesto cittadino, come oggi lo è mio fratello da 6 anni. Cosa un gran casa benere, un gran pezzo di merda che si incesso, io non vuoi che t'angonzo. Giuro, ma con un gran pugno andà a faccia e mandare all'ospedale. Devo perdere il nome mio, se non ti prendo la mandibola e te la metto dietro. Tu sei un essere spregevole, tu sei un essere che punta il dito alla gente e basta. Sei uno che giudica solamente e basta. Hai capito? Oh! E non scordare di quello che ti ho promesso. Nomina nuovamente mio fratello, che oggi è la corona della mia testa. La te vedo la già la mia virgoletta, un gran pezzo di merda. Appena vedo di nuovo la mia faccia di mio fratello, in un articolo tuo, ti vengo a cercare fino a casetta massacro. E poi mi denuncio con sta minchia, con le mani non ce l'è caccia, pezzo di merda, te lo dico già subito. Quest'ultima frase è interessante perché il mafioso, il pluripregiudicato, adesso mafioso, pluripregiudicato, non stiamo lì a fare differenze, dice con le mani carcere non ce n'è, capito? Con le mani sa benissimo qual è il diritto, capito? Con le mani carcere non ce n'è, attenzione perché con la testata quell'altro è andato in carcere, per cui stiamo attenti signor De Carolis. Capisco perché ancora non l'abbiano pizzicato, magari l'hanno già pizzicato, questa è chiaramente una che è chiaramente una minaccia evidente, no? Cioè, È tornata la De Mari, la dottoressa De Mari, quella contro il sesso anale, eccetera, eccetera. Ti leggo un passaggio di una grande omelia. Pensavo che ha fosse fatto quella dell'INPS, la De Mari. No. Sui giornali, te la sei scordata? Si chiama De Mari. No, quella si chiama in un altro modo. Sui giornali femminili parlano della tendenza del sesso anale, una valanga di malattie, un male porco. Sì, ma la donna 2.0 è padrona del sesso anale. Adesso siamo arrivati a un'altra coperta, la masturbazione. Ma non eravamo già capaci, no? Sui giornali femminili trovate i siti internet su cui potete comprare i sex toys, che sono degli oggetti con cui ci si può masturbare. Capisco la parola toys, giocattolo, perché è una cosa infantile. Quello che mi lascia perplesso è la parola sex, sesso. Avere un corpo estraneo nella parte finale della vagina o nella parte finale del tubo digerente, secondo voi è sesso? Quindi ci stanno imponendo questo drammatico lavaggio di testa. Amica mia, i sex toys, cara De Mari, io per carità apprezzo anche la tua combattività, la tua grinta, la tua verve, anche il tuo essere controcorrente. Però ti posso assicurare che sì, è sesso usare i sex toys. Dillo anche tu a voce alta, Parenzo, contro la De Mari. Usare i sex toys, no, sì, io voglio è ricordare sesso alla De Maris che l'invenzione del vibratore è una cosa molto seria. Bravo, De Mari. Bravo. La professoressa De Mari deve sapere che l'invenzione del vibratore è un'invenzione rivoluzionaria. C'è anche un bellissimo film, peraltro, mi pare risalga agli inizi del Novecento. La creazione del vibratore. Nella seconda parte della trasmissione vi dirò questo film molto popolare che racconta proprio la storia Paola del vibratore da Piacenza, e come nasce. Paola da Piacenza. Buonasera. Dimmi. Niente, io ieri vi sentivo alla radio, non vi sento più ultimamente molto spesso. Però vabbè, pazienza. Bene. Mi interessa sempre quello che dite. E niente, parlavate di questo prete che aveva paragonato un po' la questione delle a più vittime sulla coscienza, la Bonino Rina. Sì. e l'avete abbastanza una cazzata, ha detto una minchiata, però dai. Io come donna non mi sento, mi sento quasi di sottoscrivere, ma non per i motivi di tu dici che ha ragione che il prete moralmente, ma che vuol dire moralmente, ha ragione il prete sì o no, questo devi dire. Sì, ha ragione, cioè ha fatto più morti l'Abbonino di Totò Riina, secondo te. Sono 6 milioni di bambini che dalla legge 100, sì, ma ti voglio segnalare, Paola, che non è che la legge l'ha approvata l'Abbonino, l'ha approvata il Parlamento italiano. Posso amica dire mia. Una cosa a cui tengo moltissimo, ecco, che se una persona come l'Abbonino costruisce la sua carriera sull'aborto, perché cioè è responsabile delle morti, ha ragione il prete o no? Ha ragione il prete, no, non c'è più tempo, non dica porcate. E allora? E allora? Fa approvare questa legge e poi si disinteressa completamente degli effetti della legge. Ma per senti, tantissimi amica mia, anni. Non c'è dica... stato un referendum, no, ma assolutamente, Paola. Se ne disinteressa, perché io ho lavorato per... Ha ragione il prete o no? E la Bonino ha ragione il prete o no? Certo che ha ragione. Benissimo, ferma, però ti richiamo, ferma là, ti richiamo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Con me è finito. Te l'avevo detto. Se entro venerdì mi chiami, te la faccio pagare. Non mi hai chiamato, io lo sapevo già. Ma quello non lo prendi nel culo te. Perché c'è cosa c'è di bello? Sai che c'è, Crociani? Che io non ci perdo niente. L'odio ce la perdi tu. E così dopo voglio vedere se ti danno ancora 600.000 euro all'anno a Radio 24 per fare un programma che continua a calare di audience. Hai capito, coglione? E allora siccome vuoi fare il coglione con me, tu il coglione con me non lo fai! Hai capito? Perché me li te cruciali? Non me ne sbatto il cazzo! Hai capito? Che a me per me non conti meno di una mia scureggia! Scoccherei? Perché io te non ti ho sposato! Non sei mio fratello, non sei mio padre, non sei mio figlio, non sei nessuno! E quindi ti mando a fare il culo! C'è tensione, tradimento. Ascolta, che tu ti sei allontanato. A me non me ne frega un cazzo. Hai capito? Ma adesso ti devi mettere a rompergli le palle a un povero nigeriano che si è fatto due canne. E l'idea tua è che deve essere rimandato in Nigeria. È scappato dalla Nigeria perché è perseguitato. Te l'ha spiegato Don Massimo, ma è possibile che non capisci? Ma siccome io credo nella reincarnazione, spero che tu ti possa reincarnare in un neretto della Nigeria che viene perseguitato. Così poi quando scappi su un barcone per un paese libero, magari la vedi diversamente. Ecco, dopo il prete che paragona Emma Bonino a Riina, una cosa vergognosa, vergognosissima, questo dovrebbe essere sospeso per sempre, arriva Adinolfi che si fa sempre moralizzatore di tutto, ha il coraggio di confermare, seppur detto in un politichese spiccio, quello che quel prete ha detto. Una vergogna, Adinolfi, si fa sempre riconoscere, ma affanculo va. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. C'è tensione, tradimento. Allora ripetiamo due o tre cosine. La notizia non è confermata, caro David, ma pare che a Padova una bimba musulmana di 9 anni sia stata data in sposa a un uomo di 35, anche lui musulmano naturalmente, e il quale signore non ha aspettato le nozze, che sarebbero state comunque una cosa allucinante, e ha violentato la ragazzina di 9 anni, la bambina di 9 anni, e poi l'ha mandata in ospedale con un'emorragia. Ovviamente il destino di questa bambina, di questa ragazzina, fosse vero. Sì, no, il destino di questa bambina è stata deciso. No, fosse vero, ci dovrebbero essere immediatamente arresto di questa persona e quant'altro, ovviamente. Non è confermato nulla, neanche la procura conferma, né la polizia. Non risulta. Ripeto, da quello che mi hanno scritto, il destino, come ti ho di detto prima, mi ha scritto. Sì, ma chi se ne frega chi ti ha scritto? A decidere il destino di questa famiglia. Io sto a quello che è venuto fuori, poi se qualcuno smentisce, smentirà. Intanto cose ufficiali non ce ne sono, ci sono fonti giornalistiche accreditate che dicono che il futuro di questa bambina è stato deciso a tavolino così da due famiglie musulmane, chiaro? Male, malissimo, malissimo, malissimo, malissimo. Se è così, malissimo. Allora, il caso del Virgilio, dello spaccio e di altre cose ancora non ce ne siamo occupati fino adesso, perché insomma alla fine chi se ne frega. Però oggi Gasparri ha detto se i genitori dicono, perché qualcuno dei genitori pare che abbia detto che spacciano erba buona, non c'è niente di strano, si spaccia erba buona, è un cattivo genitore, vabbè, chi se ne frega. Voci dal liceo Virgilio. Ragazzi, il principio è molto semplice: i licei non si occupano, le scuole non si occupano, perché si creano danni allo Stato. Le occupazioni è roba vecchia, è roba antica, sono fatte solo per scopare e farsi le canne, che va benissimo naturalmente, uno può scopare e farsi le canne, ma non fatevele a scuola. Delle occupazioni, ma non è vero. Chi se ne frega, io ho sempre odiato le occupazioni. Le occupazioni sono un pretesto per farsi le canne, ma perché tu scopare, sei una sociale, fare altre cose. Bastian contrario, per forza. Ragazzi, se dovete fare le cose che giustamente voi volete fare, cioè dire scopare, farvi un po' di canne, che va benissimo, figuriamoci se io vi condanno, va bene farvi le canne, certo. Non proprio ammazzarsi di canne, però una canna ogni tanto può anche essere accettabile, non è quello il problema. È anche come bere un bicchiere di whisky, come bere un bicchiere di vino, non è un problema. Ognuno poi gestisce le canne come vuole. Però a scuola no. Dentro la scuola non rompete i coglioni, non si fuma, non ci si fa le canne. Giusto. Che cazzo si fa? Non si scopa, si va a scopare. In realtà, poi pensandoci bene, se uno si fa una scopata dentro un bagno della scuola, qual è il problema? Non ho capito. Se uno scopa dentro i bagni e commette un torto. No, ma distrugge la scuola? Distrugge la scuola? No, se uno si fa una chiavata dentro un bagno della scuola va benissimo. Ma no, ma lo facesse, magari l'avessi potuto fare io. Ma facesse a casa sua. Ma perché? Lo qual facesse... è il problema? Ma non fa niente di male uno a scopare dentro il bagno, va benissimo. Ma tu hai fatto certe porcherie. No, io a scuola, guarda, ma no, a scuola si va per studiare, poi c'è una bella occupazione, un'occupazione civile in cui ci si occupa di temi civili, ma si discute della civili? Costituzione, si può anche protestare contro i ministri, va benissimo. Non si occupa solo pubblico, non si spreca. È un grande momento di crescita civile, ma ancora, quello. Ma ancora, importante, ma ancora che non vengano commessi dei reati. Ma ancora con ste cazzate, stai crescita. Ma che cazzo vuol dire crescita civile? Va dai matti io. Crescita civile. Ma sono delle parole vaghe, senza contenuto. La crescita civile. Va dai matti io. Vago niente. Può essere un momento anche quello aggregativo, di consapevolezza, aggregativo, della formazione mamma della mia. Persona. Va benissimo mamma quello. Mia, sì, mamma anche mia, aggregativo, mamma certo. Mia, mamma mia. Paola da Piacenza stava parlando con noi. Paola, sì, buonasera. Oh. Allora, Paola da Piacenza, mi sembra molto antiabortista lei, giusto? Io sì, sono. Lei è contro l'aborto, va bene, per carità. Ognuno la pensa come vuole, per carità. Lei, certo, è contro l'aborto. Anche nel caso di violenza sessuale, lei è contro l'aborto? Vada a Teheran. Allora, in caso di violenza sessuale, il bambino comunque è sempre un essere che non ha colpe, è un essere innocente. Ma che vuol dire, scusi? Sicuramente. Scusa, è Paola, così. Scusami. Allora, una persona viene violentata, resta incinta, che deve fare il bambino per forza, secondo te? Ma se ci sono molti casi in cui delle persone che hanno avuto delle violenze hanno avuto i bambini, ma poi ho capito, o li hanno perché dati lo decidono in adozione, in adozione. Va bene, uno deve d'accordo. Essere costretto a partorire in per forza in adozione, oppure se lo può allevare, perché ma se uno bambino, non lo vuole, ma se uno non lo vuole invece, perché uno non lo ma perché vuole, deve fare una gravidanza per forza? Non deve fare una gravidanza per forza, è che ci va di mezzo la vita di una persona che non è colpevole. Ma non è vero, questo. Entra i tre mesi, va bene, d'accordo, un piccolo feto, ma chi se ne frega, dai. Cosa? Ma non assolutamente. Entro i tre mesi, un piccolo feto, va bene, dai, su, non c'è vita prima, là, sì, c'è vita, ma mi... Cioè, ragazzi, ma non certo ci che c'è ma la non vita, ci possiamo perché occupare tu non sei stato un feto di tre mesi, amica no, mia, tu non sei ci possiamo... nato a nove sì, mesi, ho capito. Eri già pronto. No, ma certo che sono stato anch'io un feto di tre mesi, anche di 10 giorni, di 20 giorni, anche... Ma cosa vuol dire? Se mi avessero soppresso dopo 20 giorni, dopo un mese, chi se ne frega? Cioè, comunque no. È una vita che va tutelata. Io comunque prima non ho potuto parlare. Ma che vuol dire una vita che va tutelata? Ma io vado ai matti con questa cosa qua. Ma se una persona resta incinta e non vuole avere un bambino. No, ma rispondimi su questo. Parliamo di aborto e parlami sempre del caso estremo. Io no, ti dico che in Italia l'aborto viene usato nel 90% dei casi a persone con difficoltà economiche e in moltissimi casi con finalità di eliminare se uno bambini malati, cioè ma bambini se uno che risultano vuole. down o eccetera. Allora io quello che volevo dire era che la Bonino è responsabile, non per la legge, ma perché si è disinteressata della sua applicazione. Ma è il paragone, ha fatto l'attività dei centri aiuto alla vita in modo accanito. Quel prete ha fatto un paragone, con Totò Riina. Sai con cosa ha fatto il paragone? Ha fatto il paragone con il disprezzo verso la vita umana. È uguale, che secondo si te? Può esprimere è in uguale? Modi diversi. È uguale, Totò secondo te? Riina ha ucciso per mantenere una sua struttura mafiosa. E l'altra? La Bonino ha una cattiva cattiva comprensione di cosa significa la vita umana. E dunque si possono paragonare. E dunque si possono paragonare. E dunque si possono paragonare. E dunque si possono paragonare, secondo te? Si può paragonare il fatto di sopprimere vergogna. Sandro da Pisa. Vai. Sandro, mi senti? Sì, dimmi. No, ragazzi, io a me tocca difendere la Bonino, che io non sopporto, capite? Cioè, qual è la mia apertura mentale? Adesso faccio un autoelogio. Difendola, ma che dovresti ringraziarla. Ma perché? Che vuol dire? Non è che ha fatto una cosa buona, lo va bene sempre. Quello che dice adesso mi sta sui coglioni. Quello che ha fatto prima va benissimo, punto e basta. Ringraziarla, no, una. Tui. Battaglie civili, capito, battaglie per dire? Tutti, battaglie civili, puoi usare i suoi diritti o non usarli, occhi, quelli Sandro che ha ottenuto per tutti. Sandro da Pisa. Quello che dice sugli immigrati mi sta sui coglioni, chiaro? Forza, perché Sandro non da Pisa. Lo mangio, quindi. Luciani, mi senti? Fammi un favore, per favore. Ma dice delle cose di assoluto buon senso. Cosa vuol dire? Quel nano di merda lì di Parenzo. Ma quello lì, ma si rende conto che ogni volta apre bella fogna di bocca, dice delle stronzate? Con chi sta parlando? Ma quello è un mentecatto. Quello è incapace di intendere e di volere. Quello, se te vieni via a Pisa, siamo sommersi da questa gente di merda. Ma buonasera ancora a te. Siamo sommersi a questa gente di merda. Vai al semaforo, ti assaltano, ti vogliono la vita. Buonasera. Vai a parcheggi. Buonasera, ti signore di Pisa. Qualcosa. Vai. Questa gente lì la dovete mandare mai a casa sua. Mandatela da Parenzo, da quello stronzo di prete pedofilo di merda. No, amico mio, cioè, ti assumi la responsabilità di quello che dici. Io spero che lo quereri il prete. Spero che il prete lo quereri. Beh, certo, è gravissimo. Non se ne può più. Ma ho capito, hai dato del pedofilo a quel prete. Adesso, amico mio. Nel senso, senti queste cose sempre anche dei preti che sono sempre usati. Ora, no, non c'è nessun senso, imbecille. Non c'è nessun senso, imbecille. Quale senso c'è? Che senso c'è? Il senso del suo non cervello, altro che. Capito? Quello stronzo lì di Parenzo. Che si insultano le persone così, si diffamano così le persone. Ma come si permette a dare del pedofilo al prete? Imbecille, imbecille. Quello che è un nano di merda. Adesso i nani lei che ha appena dato del pedofilo a un prete senza neanche conoscerlo, certo, imbecille. Quel prete lì lo condanno solo perché di gente. Ma il suo è un senso di un culo che non capisce un cazzo. Quello lì non si ne ha bisogno di della gente lì di venire a dire che la demografia, ma cosa cazzo sta a dire quel prete lì? Quel prete lì non si rende conto di nulla. Ma di lei non c'è bisogno. Capito? Fermi tutti. E cancella le mie foto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta eccezionale, incredibile, solo per questa settimana, in occasione del Black Friday. È arrivato il blackout che accende nuovi elettrizzanti vantaggi per chi acquista una BMW i3 solo online, solo dal 24 novembre al 1 dicembre. Scopri BMW i3 Blackout Friday Week e vivi il piacere di guidare elettrico. Regolamento e dettagli dell'offerta su store.bmw.it. Offerta valida salvo disponibilità. La vita è una questione di trainer. La porta chiusa in faccia al momento giusto? Trainer. Il pubblico che ti applaude? Trainer. L'amico che dice sempre quello che pensa? La pacca sulla spalla che non ti aspettavi? Trainer. Il socio che ha creduto in te? Trainer. Oggi, con il personal trainer dell'energia, alleni ogni giorno all'efficienza la tua azienda. Repower, l'energia che ti serve. È già autunno. È già inverno. Calzature e accessori Nero Giardini. Il made in Italy. Quando sei sulla tua Jaguar, non devi pensare ad altro che al puro piacere di guida. Per questo abbiamo creato Jaguar Jump, il primo leasing Jaguar anche per i privati, con furto incendio, RCA, manutenzione, garanzia e assistenza stradale per 3 anni inclusi. Scopri Jaguar F-Pace con Jaguar Jump a €495 al mese. Tanfisso 1,95, tag 3,92, salva approvazione della banca fino al 30 novembre 2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi presso le concessionarie Jaguar aderenti all'iniziativa. La tecnologia può migliorare la vita delle persone? Philips, azienda leader nell'Health Technology, crede in un approccio alla cura in grado di connettere persone, dati e tecnologia a beneficio dei pazienti e del sistema sanitario. Nuovi modelli di business, innovazione tecnologica e connected care. Vai su radio24.it, entra nella sezione La salute secondo Philips e scopri i progetti per vincere le sfide e cogliere le opportunità della sanità del futuro. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. La zanzara. Siete due clown pagati da Confindustria. Mi fate schifo. Mi fate schifo. Lorenzo, sentimi bene, coglione. Tu intanto non hai occhi verdi come ho io. Primo, coglione. Non hai ricci come ho io, coglione. E io ho cominciato a diventare grigio a 53 anni, 54. Cosa dai del brutto a me che mi tingo? Perché tu che cosa fai, imbecille? Te li tingi che tu, idiota! E un coglione! Pensi che non mi ricordo che eri già grigio? Coglione! Cioè, qual è il problema? No, scusami, però adesso io posso accettare tutto. Accetto di essere al soldo del Mossad, accetto di essere al servizio delle multinazionali e delle banche, accetto di essere un potere forte, la cosa mi fa sorridere su tutta la linea, accetto di essere considerato pagato dalla Confindustria, ma che mi si, che è vero peraltro, ma che mi si dica che mi tingo i capelli. Beh, amico mio, tu che mi conosci dovresti smentire solamente. Dopodiché, in generale, accetto la sfida. Pubblicheremo le foto sue e le mie foto sul fatto che il signor Mauro da Mantova sia un cesso a pedali è riconosciuto da tutti, in primis dalla moglie che se n'è andata, ricordiamolo. Cioè, io parlo per fatti, per tabulas. La moglie di quello lì, di quell'imbecille, se n'è andata. Vabbè, non tanto per la non tanto perché è un idiota, cosa che hanno constatato ormai in 6 anni, come dire, di trasmissioni radiofoniche, tutti gli ascoltatori dell'orbe terracqueo, ma la moglie lo ha lasciato perché è un cesso a pedali, è un cesso a pedali, ma io lo abbraccio forte con il mio maglione di cashmere, perché con lui non voglio litigare, voglio consolarlo, perché uno che è brutto, brutto come lui, che è un cesso, è orribile e in più anche stupido, non può che avere la mia solidarietà di persona che rispetta i diritti umani, che rispetta casi umani. Ti sei attirato una grana perché casualmente, ti giuro, casualmente la moglie, ma insomma, voglio ricordare due fatti, due me li sono annotati qua. Uno, è stato lasciato dalla moglie. Sì. Ma che c'entra? Domande, tanta gente domanda, viene lasciata. Perché faccio un grafico, è stato lasciato dalla moglie, domanda, risposta, sì, poi due frecce, perché io ho due risposte. Uno, cesso a pedali, si può barrare. Due, stupido, si può barrare anche questa casella. Vabbè, uguale Mauro, Mauro da Mantova, questo è il risultato. Dai, poi possiamo discutere di tutto. Ma quel vatto con le gambe, che cos'è quel vatto con le gambe? Cesso, ma ti sei visto? Ma ti sei visto? Sei la merda. Cesso a pedali. Ma ce l'hai gli orecchi che sembrano due calamari. Lasciate dalla moglie. Ma se c'era che ti abbiamo dato due cazzotti. Non lo sopporta più nessuno. Manco il gatto. Quel gatto lì, quel gatto dice: ti tocchi gli occhi, coglione. C'è la merda. C'è la merda. C'è la merda. Vabbè, Mauro, perché hai chiamato? Come scusa? Fa col gatto? Che col gatto? Ma come fa a fare le brutte? Dare le brutte a me con gli occhi verdi e lui ha gli occhi con la merda. Anche il gatto se n'è andato. Ma ci vuole conto? Un bel coraggio. Però archiviamo questo. Dare del brutto a me, c'ha gli occhi verdi e lui c'ha gli occhi color merda. Cioè che c'hai tu gli occhi? C'hai gli occhi? Verdi, scusa, che gli occhi hai? Gli occhi verdi. Vabbè, gli occhi verdi. Se ne frega però, scusa. Verdi dalle stupidaggini che dici, verdi dalla vergogna. Occhi verdi dalla vergogna. Nel 2012? Nel 2012? Perché è successo? Cosa è successo? Ascolta, Cruciani, io voglio parlare con te. Ma che è successo? Non con le merda. perdere, merda del cazzo, sono stica ad incontrarla. Nel 2012, allora, che è successo? Nel 2012 ho conosciuto una in una chat. Sì, ci incontriamo a Mantova, è una domenicana. È una domenicana. Una domenicana. Figurati. Insomma, ma che io ho fatto giù il telefono? Allora, non farmi cazzare. Allora, allora, ma racconta, però. Vai avanti. Vai. Porca boia. Ma voglio essere interrotto. Vai avanti, però. Sto demente. Dai. E le parlo di merda. Allora, ma non conoscere sta donna? Ma non conoscere sta donna? Poi andiamo a casa, mi fai il caffè. Sì. Poi dopo mi fai il caffè, mi fai andare a casa. Quando ti giuro sulla vita di mia figlia, allora? Che io non giuro mai il falso. Vabbè, giuro dai, sempre il vero. Per carità. Come vado? Camera letto che mi accompagna lei, sì. Mi guarda, ti giuro, mi ha dato una manata sullo stomaco, mi ha coricato, mi è venuta sopra e mi ha sbattuto la figa in faccia. Ma che c'entra, scusa? Ma un racconto incredibile. Ma sto cazzo, che è brutto che fa vomitare. Ma che c'entra? Ma che avventura incredibile. Io vado a quel fronte di merda. Aspetta, sto da una domenicana. Scusami, aspetta, Davide. Aspetta, Mauro, aspetta. Vabbè, cornuto non credo. Aspetta, Mauro, però ricapitoliamo. Parezzo, ricapitola un attimo quello che è successo. Cioè, incontra una domenicana. In una chat, e già qui ci sarebbe da indagare, incontra una tal domenicana, la quale la invita a casa sua, gli offre un caffè, gli fa vedere la casa come fosse un'agenzia immobiliare. Tu dici una prostituta alla fine? Nella migliore delle ipotesi è una prostituta, nella migliore. Nella peggiore, ma nella ladra, peggiore dici, delle ipotesi ladra. È semplicemente una ladra che lo avrà rapinato di tutto e lui, povero allocco, è cascato nella trappola di questa simpatica domenicana. Parola che andrebbe Mauro, a questo punto premiata. Mauro, parola ma Mauro. Non c'è, ma non è un dibattito. Voglio parlare dell'argomento per cui ho chiamato. Non voglio sentire quel coglione che è una merda disumana. Non mi messo soppresso, quindi vabbè, adesso non esagerare. Allora, per il quale lei ha chiamato. Qual è l'argomento? Il problema del governo. Quale governo? Quale governo? Il governo che abbiamo abusivo da sei anni. Vabbè, Gentiloni, sì. Allora. No, Renziloni. Perché tu devi sapere che venerdì il coglione di Renzi, il bamboccione, è venuto a Mantova. Vabbè, ma quello chi se ne frega, dai. Lo abbiamo contestato. Ho fatto il video su Facebook. Ma ha fatto il video anche. Mamma mia, che documento importante. Coglione! Perché se tu devi sapere che Vito Monaco, sai cosa mi ha detto Vito Monaco? Ma chi è Vito Monaco? Ma ragazzi, ma chi sei? Ma chi ha detto? Che ti ha detto? Sai cosa mi ha detto? Cosa ti ha detto? Ho sentito fa che Parenzo mi ha insultato in radio. Sì, beh, certo. Vito Monaco. E sai cosa mi ha detto lui? Che ti ha ma detto? Quello fa era un coglione 20 anni fa. Te l'ero. Vito Monaco. Vabbè, ma chi se ne frega? Una dai, voce, scrive. Però scusami, Mauro. E non ci sa nemmeno fare. Torniamo però alla domenicana, che è più interessante. Allora, ma non ti aveva violentato sta domenicana alla fine? Certo che mi ha violentato. Ma io ho avuto un enorme favore, cioè per me non mi ha fatto rispetto, mi ha fatto un piacere, mi ha mangiato la patata. Vabbè, questo vabbè, insomma, va benissimo, ti ha mangiato la, patata. Ma che fantasia sto qua. Ho conosciuto pure una multiorgasmica di Brescia. Vabbè, ma questo anni. Vabbè, ma questo ah, 23 questo anni, una ragazza di 23 anni va con Mauro da Mantova. Secondo voi, amici, è verosimile? Andate a vedere che faccia ha questo qua. Andatelo a vedere, io non voglio essere giudicato io, no? Io andate a vedere che faccia da cazzo ha Mauro da Mantova, vi prego, e giudicate voi. C'è un bidone della mollezza. Ma schifoso, schifoso. Allora ma figurati, ascoltatori, digitate Mauro da Mantova su Google, andate a vedere che faccia ha questo qua e poi ditemi se è verosimile. Neanche il cesso ti violenta, te. La tazza del cesso si rifiuta di ospitarti. A te non ti dedica un cazzo, perché non vali niente, vali il 3% di audience. Ma, Mauro, allora, 77, allora ma che dati hai? Che dati hai? Vabbè, allora vai a vedere. Ma non ho capito, Mauro, allora... Che quando facciamo Mauro davanti a Busparenzo, lui è al massimo arriva il 32. Vabbè, e io sono oh, sopra. Che palle con sti dati. Allora, ho capito, che vuoi? Dimmi. Magari vanno con lui perché è famoso, mi suggerisce giustamente Davide Romano. Qual è? Che bisogna preoccuparci noi, come Stato italiano, governo italiano abusivo, da sei anni, che ha un casino di poveri, esodati, allora? Pensionati che non ce la fanno, malati di mente come te, o sulla macchina, ci preoccupiamo delle spose bambine, ma ci devono preoccupare gli stati da dove provengono, e poi bisogna fare lo usciare per garantire i voti a quei bastardi del pigliotta. Oppure bisogna fare anche le pensioni, allungare le pensioni. così uno paga le pensioni, ma non fai tempo andarci, perché tu arrivi, sei pronto, te lo allungano di Parenzo, economista, l'economista Mauro, dai. No, sono dei... Ma scusa, ma se tu mi allunghi sempre la pensione, l'istituto... Ma tu che c'entri? Ma che c'entri tu? Bruno Leone, ma, questo c'entri, va, mi pare. Ma che c'entri tu che non lavori? Perché non lavori? Perché non lavori, Mauro? Ma secondo te perché? Perché? Perché nessuno ti vuole, non sai fare un cazzo se non telefonare nelle radio e nelle trasmissioni! Ma sei lavorato alla Maserati, la Maserati corse! Ma che cazzo dici? Che tu sei nulla! Tu non sai fare nulla! E poi ti dirò di più! Se so che sei iscritto all'albo dei giornalisti, ti denuncio! Perché tu non puoi! Sì, non vero, puoi, perché non è l'ora! Sono iscrittissimo all'albo dei giornalisti! Fermi tutto, ciao, ciao! Ciao, Tomino! Agilo! Fermo! Questa gabbia di matti, grande ritorno stasera, Dago in the Sky su Sky, Roberto D'Agostino, eccoci qui. Ciao a tutti. D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino. Chiama la questura, eh? Come chiami la questura? Chiama la Boldrini, anzi. Ma no, fermo, che la passere fuori. Ma che sei fatto, la Boldrini che c'ha il dossier su di noi? Ma te rendi conto che la Boldrini ha un dossier? Non ti hanno ancora arrestato, questo è importante. Ma ti rendi conto che la Boldrini ha creato un dossier su di noi, che ogni tanto consegna a qualcuno, un dossier su di noi, dicendo che siamo una trasmissione di zozzoni, di sporcaccioni. Sì, ha ragione, ci vado a testimoniare a favore. Giuro, è così, ha una ragione. Cosa pazzesca. Ma ragazzi, guarda, veramente, guarda. Sarai sottoposta a castrazione chimica, come diceva il poeta. No, io castrazione chimica no, ti prego, toglietemi tutto tranne quello. Ho costretto a mangiare, non so, vegano per qualche mese. Quale potrebbe essere? No, lo sai quale potrebbe essere la cosa peggiore che mi potrebbe accadere? Ti ricordi quella gabbietta che una volta Roberto mi ha fatto vedere a casa sua, una gabbietta per il pisello? Racconta un po' questa cosa. Una gabbietta per il pisello, raccontaci un po' questa cosa, la grande platea della Zanzara. No, la gabbia nasce per antrofine, cioè la gabbia è in origine, come dire, una cintura di castità. No, infatti sì. Ci sta tanto di lucchetto con chiave. Sì. Mamma mia. Ovviamente tra le varie degenerazioni dell'uomo nel corso degli ultimi mesi c'è anche questo grande ritorno a bondage, feticismo, tutte quelle pratiche sessuali che appassionano Cruciani. No, a me non mi piace il bondage, ti posso assicurare. Forse piace a te il bondage, a me non mi piace manco allora lì hanno fatto? Dopo avete provato tutti i colori e i dolori, hanno trovato che nel campo della cintura di castità, in quel campo lì, giochi medievali, eccetera, c'era qualche attrezzo che poteva fare la giusta serata, la giusta incontro, il giusto orgasmo, e hanno preso queste gabbiette col coso. Infatti, ma come funziona? Scusa, tecnicamente, come si fa a godere con una gabbietta? Cioè, ti stringe il pisello sta gabbietta, che fa? No, la gabbietta no, attento. Allora, la gabbietta è chiaramente la chiave, una volta che viene imprigionato. Viene imprigionato dentro l'augello, imprigionato dentro. Allora? L'augello viene imprigionato e chiuso all'interno di questa gabbietta con tanto di lucchetto, dove la chiave diventa una catenina per la donna, per l'uomo, eccetera. Quindi vanno in giro, c'è il carnefice e la vittima, eccetera, eccetera. Dove avviene il grave il misfatto, possiamo dirlo così? Sì, il misfatto è che poi a un certo punto, come tu ben sai, ci sono degli organi sottoposti ad erezione. Più o meno, sì. Ecco, questa erezione, una volta che viene bloccata da una gabbietta... Sì. Mamma mia. Porta per alcuni al dolore, per altri invece al piacere. Come tu pensai, il punto di separazione tra piacere e dolore è leggerissimo, è sottilissimo. Quindi noi sappiamo bene che l'uomo può a un certo punto passare da un dolore al piacere. Ecco, benissimo. Allora, abbiamo capito che questa gabbietta che io ho visto, Parenzo, ho visto fisicamente questa gabbietta. Sì, io ce l'ho a casa per questo, diciamolo, anche soprattutto per il fatto di come oggetto, sì, come sculturina, diciamo, che, sì, è molto, che è fatta molto bene. Bellissima, molto, sì, bellissima. Nel campo. Ma di che, diciamo, anno è, scusa, la gabbietta? Toys, queste cose qui. Cioè, dal punto di vista del design, qualcosa di, anche di buono. No, e no, ma assolutamente. È bella. Mi segnalano che c'è una, sì, gabbietta simile. Una mia amica dottoressa, che peraltro il padre scrive anche. Vabbè, mia amica mi scrive, provala la gabbietta. C'è una gabbietta simile al Museo dell'Amore a Vienna, mi scrive. Ma ce l'hanno tutti, dai. Qualsiasi padre di famiglia ha una gabbietta in casa. Per non, dai, far diventare ciechi, scusate, per non far diventare ciechi, la dottoressa mi scrive. Veramente, ecco, giusto qualche eccentrico non ha la gabbietta per l'augello, ma tutti gli altri hanno decine di gabbiette anche diverse, anche più divertenti. Devo dire la verità, io, a me il sesso diverte molto, però la gabbietta... Del 1800 mi dicono. La gabbietta per l'uccello... Sì, è antichissimo, è medioevo, anzi, andrei un po' più indietro. Poi nel campo di tutte queste efferatezze per alcuni e per altri invece giochini vari, sì, è perché c'è sta un problema fondamentale, la differenza è che per alcuni il sesso è gioco, per altri invece è un dramma e per altri ancora è una fatica, cioè, ognuno lo vede da un punto di vista diverso. Infatti, sì, però io per esempio, questa maledetta gabbietta, alcuni adesso mi stanno scrivendo delle ragazze, ma prova la gabbietta, che provo la gabbietta? Ragazzi, a me l'uccello imprigionato dentro sta gabbietta non mi piace, devo dire la verità. Non... Però ti farebbe bene per un po' provarla la gabbietta. Ma no, ma non è una questione, guarda che è al contrario di quello che pensi, non è una sorta di castrazione, è il contrario, è per provare piacere. È come, diciamo, David, adesso immagina una salsiccia che, sì, viene in qualche modo salame, qualcosa di questo, sì, tipo, che viene stretta finché esplode. No? Capito? Ma era, sì, è una specie di garrota. Per alcuni... No, non è questo, vedi, ancora. Se tu vieni un giorno a casa, te la faccio provare. Va bene, vengo e la provo, volentieri. Settimana prossima. Il problema fondamentale è che faccio il cronista, voglio provare tutto. Si tratta di sesso, io chiamo sempre un sesso ricreativo, cioè il sesso poi, credo, ho detto, può essere drammatico, può essere anche fantastico perché uno vuole fare un figlio, che cos'è? Ci sono tante perversioni nella vita anche fra i figli, sì, e questo non è solamente un gioco, vediamo fino a che punto tu riesci a resistere e poi fino all'esplosione finale, che sarà qualcosa tipo eruzione del Vesuvio, eccetera, eccetera. Ma scusa, ma non può far male una cosa del genere? Cioè, o no? Cioè, non può ferire proprio fisicamente col sangue che esce? Non si può arrivare a questo estremo? No, questo no. Vabbè, perché cambiamo argomento. Allora, no, Cruciani, tu parli sempre del cazzo, però devi anche capire che è cavernoso, non è un muscolo. Capito? Qui non è un muscolo, dice, allora esce il sangue qua di là. Che cos'è il fallo? Sì, un muscolo, sì, certo, un muscolo. Non è un muscolo, no. Ah, non è un muscolo. Corpo cavernoso. Sì, vabbè. Allora, questo corpo cavernoso, dove arriva il sangue e ti porta poi ai vari piaceri, piacere, è un corpo cavernoso che va irrorato, ecco perché poi molti acquistano, tra cui te, Davide e compagni. No, Davide no, io un po' sì, ogni Viagra, tanto. Viagra, che serve? Viagra serve a mandare, diciamo, il sangue nel luogo deputato. Il luogo deputato è del maschio, è quello. Allora, a questo punto, quel corpo cavernoso acquista una vitalità. E la gabbietta serve a questo? La gabbietta serve anche a questo? La gabbietta serve, che, come tu pensai, se tu prendi una bottiglia di birra, no? Sì. Cominci a scuoterla, la costringi col tappo, poi una notte togli il tappo, c'è un'esplosione, no? C'è un'esplosione, sì. Allora, questa esplosione è quella che succede poi al fallo. Ma roba pazzesca, ragazzi, dai. Non è pazzesca, la cosa la usavano nel medioevo. Ho capito, appunto, ma il tema è arretrato. Ma io sarò arretrato. A proposito di piselli, scusa, si è scoperto poi che è il cazzo più ciucciato che evocato dalla Brilli? Da Nancy Brilli? Ma io sapevo che era un produttore che era passato a miglior vita. Cioè chi? Non si può dire perché io, sinceramente, non ho le prove. Io, nessuno ci ha provato con me. Io infatti dico questo. Cioè, alla fine, qui le molestie poi non lo so. Non è mai nessuno mi ha detto, caspita, ti voglio portare via, manco un bacio, niente. Vabbè, ma che potere hai tu, scusa Luca? Sì, adesso sì, potere, qualche potere ce l'hai, però insomma, cioè tu per esempio adesso, no, mi sbaglio, perché hai un potere mediatico, nessuno ci ha mai provato con te esplicitamente per, che ne so, è per quello una... che dico, io tutti quanti mi dicono, ah, cazzo, tu sei potente, puoi scrivere quello, non c'è nessuno sopra, sotto, di lato, ma purtroppo nessuno, né uomo né donna ci ha mai provato, né intermedi, capito? Allora torniamo un attimo, fra poco, ricordate tutti ragazzi, stasera non mi tradite, no, questa puntata di questa sera, aspetta, aspetta, fammi mandare la pubblicità, fammi mandare la pubblicità, aspetta. Hey, Italia, hey, hai capito me, Italia, hai capito me, Italia, Italia, svegliati, hai capito me, colato, Italia, forte, forza, colato, Italia. Italia, Italia, oh no, mamma mia, bocca giù da bocca miseria, oh svegliati ragazzi, Italia, sveglia, bocca puttana. Ci vediamo, oh, ciao. E comunque, viva il Pio. La zanzara. Grazie Roberto D'Agostino, no, grazie al cazzo. È stato chiarissimo. Grazie al cazzo. President that God ever created. E così le donne non parlano del corpo degli uomini, non parlano di sesso, mannaggia affanculo, ma che cazzo dire? Ma le donne sono peggio degli uomini, le donne parlano in una maniera dettagliata, una maniera quasi morbosa del sesso, dei particolari del sesso. David, ma tu non sei veramente un cazzo, vatte a ripone. Allora, questo ascoltatore criticava le parole l'altro giorno di Maria Rita Parsi, che diceva incredibilmente, secondo me, che la donna non è ossessionata dal corpo degli uomini come lo sarebbero invece gli uomini, secondo lei. Per carità, sarà pure una persona intelligente, ma ha detto una cazzata pazzesca. Ha devi detto sapere, ossessionata, cioè è con uguale, la stessa... peggio, forse peggio, è uguale, guardano il nostro corpo come noi guardiamo il loro allo stesso modo, ma che è sta differenza, questa storia assurda, dai, su. Allora, volevo far notare Roberto D'Agostino, ripeto, Sky, Dago in the Sky questa sera, che Asia Argento in un'intervista l'altro giorno ha dato la colpa a Berlusconi di questa situazione, delle molestie per tanti anni di visione berlusconiana della femmina. Tanti anni di visione berlusconiana della femmina che hanno invece portato all'eliminazione della donna, non so che cosa. Dai. In America non c'era problema, ma non se ne può più di queste robe di Asia Argento. Sì, posso esprimere la mia opinione? Dimmi, dimmi. Che in parte sono d'accordo, in parte no. Cioè, vale a dire, io considero Berlusconi mai una causa, Berlusconi è un effetto, vale a dire, quando Berlusconi lancia i suoi canali di Mediaset, quei vari programmi che noi conosciamo da Drive-In a quell'altro di Jerry Galanto, i programmi pecorecci, diciamo, con una donna che era... con le chiappe di fuori, le teste al contrario, eccetera, eccetera. E però ci piacciono a noi. Ma non è quello, è che a un certo punto, a livello mediatico, Berlusconi ha messo in circolazione un tipo di donna, tipo Miss, chiamiamola Miss Biscione, no? Un tipo di donna molto provocativa, molto, che erano quegli anni 80 in cui il corpo prendeva il sopravvento, certo. Ci ricordiamo la palestra, ci ricordiamo la febbre del sabato sera, ci ricordiamo che cos'è. E Berlusconi è stato uno dei più grandi, appunto, capaci produttori di questo tipo di donne. Ma non è negativo, però, non è una cosa negativa, cioè non è cioè non deve essere interpretata come una cosa negativa, come dice Asia Argento. No, no, quello no, perché Asia Argento forse non ha studiato e non sa che con le molestie e compagnia varia, se uno torna indietro si va a finire a Rato delle Sabine, andiamo a finire ad Amedeva, eccetera, eccetera. Quello è sciocco. dire una cosa del genere, perché la storia sta lì a dimostrare che sempre questa guerra maschio contro donne, donne contro uomini, è sempre distinta e nasce proprio da lì anche il nostro piacere erotico, e questo conflitto ci porta sempre, il conflitto poi è quello che accende. Senti, ma secondo te, tra quelli che dicono che le Iene hanno fatto una porcheria, tipo la Lucarelli, no? O altri ancora, o comunque che hanno inseguito lo scoop a ogni costo, e quelli delle Iene che invece secondo me hanno fatto un lavoro straordinario sulla questione di Brizzi, chi ha ragione? Io secondo me, come ho già detto a Giarrusso, che è stato poi colui che ha fatto lo scoop, il problema è questo: una volta fatta diciamo l'avvelenata sullo schermo, sul piccolo schermo, alle Iene, doveva seguire un altro atto, cioè queste signore e signorine dovevano recarsi in procura a porgere denuncia. Ma se non si può più fare, ma se non si può più fare, no, non si può fare, tu parli perché non lo sai, non si può fare a livello penale, ma a livello civile, per i danni si può fare. Loro devono andare in procura, fare una, con il loro avvocato, fare una bella denuncia, guadagnare pure qualche soldo. Ma questo non è scuso che lo facciano, Ma non è scuso, ma sono passati 15 giorni, non si capisce perché non lo fanno, non si capisce per quale motivo. Queste continuano a accusare senza andare, c'è la legge, non c'è la voglia mediatica. Ma ho capito, ma quello mica è colpa del Giarrusso, delle Iene, scusami. Guarda, io mi è capitato di andare in Cassazione per una causa. In Cassazione è ingolfato, sai per che cosa? Per le liti dei condomini. I condomini sono quello che ingolfa la giustizia in Italia. Allora, queste signorine che dicevano cose tremende, cazzi di qua e i piselli di là sopra, perché non sono vanno in procura a sporgere denuncia? Ma non è detto, ma guarda che non è escluso che la causa civile la faranno queste qua, cioè non è escluso nemmeno, non è che c'è uno. Però cioè, finora ha ragione D'Agostino, questi hanno semplicemente parlato, alcune peraltro a volto coperto, e si è scatenato un tribunale mediatico, invece il tribunale è solo quello. Guarda che sono c'è andate a tutte da Cavour, sono andate tutte molta gente, come dice, fa un transfert ed è proprio fallimento artistico. Accusando qualcuno. A me questo è dato che io ho fatto un film che era Mutande Parte nel 92 addirittura, quando tu manco eri nato, dove appunto la trama era di quattro ragazze nel mondo dello spettacolo che aprivano le porte del successo con il grimaldello della fica. A quel punto là, quello è un film che ancora si può vedere, che lo vanno ancora in onda. No, ma per carità, perché Brizzi non querela? Perché Brizzi non querela allora? Perché Brizzi non querela le Iene? Cioè, perché appunto, evidentemente se querela si mette nei guai. Queste qua pare che siano andate dalla Buongiorno comunque per promuovere la causa civile. Anzi, ci sono. Aspettiamo. Aspettiamo, ma non capisco perché gli attacchi sono non contro quelli, non contro Brizzi, ma sono contro questi qua che fanno le inchieste. Questo mi pare paradossale. No, cioè, l'autodifesa ovvio, del cinema. Adesso a Brizzi, non mi dica che Brizzi gli hanno tolto, l'hanno sbianchettato dal film, vive recluso non so dove, si va in giro poveraccio, nascosto. Allora adesso sicuramente non puoi dire che quello sta a bottiglia di champagne. No, assolutamente no, però cioè, che ogni tanto ci sono delle, anche ai giornalisti succede l'autodifesa della casta del cinema, no? Che ma tutti... non c'è, no, vabbè, la merda sta è nel ventilatore. Ma perché per esempio non scoppia qualcosa in televisione, secondo te Roberto, sul mondo della televisione? Appunto, perché nel mondo della televisione, come in tutti gli altri mondi, vedi la politica, no? Dove lì lo scambio merci è avvenuto in maniera anche selvaggia, basta vedere chi oggi siede nel Parlamento, uno capirà che qual è il motivo. Hai detto l'altro giorno la Gianmanco in televisione, chi ti ha messo in Parlamento là? No? Cioè, no, aspetta, la Gianmanco ha cominciato a raccontare i miracoli di Berlusconi. Sì. Io ho fatto presente che secondo me un miracolo di Berlusconi è che lei sieda in Parlamento. Certo, assolutamente. Quello è un miracolo, questo sicuramente. Quello è un miracolo, perché come tanti altri. Allora, adesso Gabriella Gianmanco, signorina palermitana di 40 anni suonati, che nasce come meteorina. Sì. Ora, ecco, miracolata da Berlusconi, non c'è dubbio, come tante altre, uguale, come tante altre. Allora, parliamoci chiaro. Allora, io per andare in Parlamento una volta dove avere delle qualità, delle competenze, delle capacità. Non è che uno che faceva il meccanico o faceva il ballerino andava in Parlamento o faceva la soubrette. Non si è mai visto. Comunque ragazzi, stasera Dago allora, anche una cosa voglio dire. Dimmi. Quando all'epoca la Cicciolina attraverso Pannella e la Bonino, dice non ha fatto un pompino per andare in Parlamento, tu dici? aspetta, quando lì quella fu proprio presa da, perché manco ci pensava Cicciolino, ti assicuro, fu proprio presa la grande idea mediatica di Pannella di portarla in Parlamento, che è il più grosso sgarbo, il più grosso che poteva fare al Parlamento Pannella, portare una porno star. Allora a quell'epoca sono leggi 3.000 articoli in cui si diceva: ma dove è finito questo Parlamento? In che mani siamo? Allora a questo punto, cioè, meglio Cicciolina di quelle che ci stanno adesso portate miracolate da Berlusconi, dici te? Ah, quello te lo so anche scrivere, sottoscrivere. Va bene. Ciao Robè, grazie. Dago in the sky stasera, mi raccomando, grande. A che ora? 21:15. Ripeti, a che ora? 21:15. Ciao, amico. No, ciao. Fatti curare. Allora, Manuel da Bari, vai Manuel. Pronto, ciao. Comunque ragazzi, allora, la descrizione della gabbietta per il pisello è straordinaria, eh? Stupenda. Cioè, dovete vedere questa gabbietta, che è qualcosa di impressionante. Io non metterò mai il mio uccello dentro quella gabbietta, il mio augello, come diceva prima Roberti, in maniera molto meno... Cioè, non sa di essere alla Zanzara ogni tanto, D'Agostino. Pensa di essere in televisione, dove non è che si può dire cazzo, uccello, eccetera. Dice, metti il tuo augello, perché gli dava anche bene, perché non è che bisogna per forza usare la parola cazzo, pisello, eccetera. Si può usare anche la parola tranquillamente augello, anzi è simpatico e anche forte sentire ogni tanto non la parola cazzo ma la parola augello, giusto Davide? Sono sicuro che ti piace molto questa augello, cosa qua. Augello reale, mi piace moltissimo. Dopodiché vedo che sta continuando su internet la campagna di informazione riguardo Mauro da Mantova. Oddio. E vedo che sono state pubblicate delle foto, giustamente il paragone più forte che è emerso, se tu guardi la rete, sì, Twitter, dimmi, eccetera, ricorda un personaggio di Goonies. Vabbè, Manuel da Bari. Si stanno scatenando. Però, ragazzi, giustamente la gente è andata a vedere, cioè, lasciate star quel che dico io. Io non, vabbè, ma ognuno ha le sue cose. Mettete, no, ma io per carità, hai non detto do che opinioni. È un cesso a pedali. Hai detto è un, allora, cesso la mia a pedali. Opinione è che è un cesso a pedali. Dopodiché vi dico: non vi fidate di David Parenzo. Bene, andate su Google, vabbè, digitate Mauro da Mantova e fatevi voi un'opinione. Ma dice che si è fatto schienare da una domenicana. Ma quella è una ma poveretta, ma la domenicana, ma non. Manuel da Bari, dai Manuel. Andate allora, a vedere, io non voglio dire niente. Fammi sentire Manuel, dai. Sì, per carità. Dai, dimmi. Ciao, allora senti Cruciani, io volevo dire che la vostra trasmissione la seguo molto e mi piace anche davvero tanto. Però lasciamelo dire, oggi secondo me un paio l'hai detta. Un paio grosse l'hai davvero. Dimmi, che ho detto? Perché? Scusi, io ne dico ogni giorno tantissime. Due mi sembrano, sì, anche poche. Oggi, mi sembrano anche poche. No, io due su, cioè su uno, dimmi, in particolare, poi davvero. Dai, vai, forza. Quando hai iniziato a parlare del fatto che gli spinali a scuola, le chiavate sì, e gli spinali invece no. Ma guarda, è una questione anche. Ma lo sai perché ho detto questo? È molto chiaro. Gli spinelli, innanzitutto il fumo può dare fastidio a qualcuno. Cioè, tu magari non vai a fumare fuori. No, ma fuori, quant'altro, che c'entra? Fuori dalla scuola. No, fuori, cioè, dentro la scuola. Dalla scuola ci sono dei posti pubblici, cioè dei posti. No, fuori dalla scuola che c'è. Scuola, ho capito, ragazzi, però diciamo. Sì, però dove non è che io c'erano. Sì, però Manuel, scusa un attimo. Io ho detto tu hai dato la chiavata, sì, le ma canne certo, no. Ma la chiavata non fa male a nessuno. Ma certo. La canna chi è che fa male? Ma no, ma ho capito, mentre io me le sono fatte le canne a scuola, comunque ho acquisito il mio bagaglio culturale, cioè l'ho canne, comunque a casa, con le canne, con le canne. Con le canne, però, per dire che le canne sicuramente non sono deleterie a quello che diciamo. Dipende quante te ne fai. Comunque, Manuel, guarda, io sono d'accordo. Non dipende da quanto Manuel, te ne fai, io... dipende comunque. Cioè, Manuel, l'unica cosa è che Manuel, non, scusa, non creano male, perché Manuel, fermo la discriminazione. Oddio, Manuel, dai, Manuel, le chiavate sì, le canne no. No, Manuel, dai, io ho detto, ma non è che sono a favore, figurati, sono a favore della legalizzazione della droga. Sì, ma questo lo sappiamo. Sono a favore, c'è un'incoerenza di base. Non è un'incoerenza, è normale, dentro una scuola. Dentro una scuola le canne non si possono fare, punto e basta. Ma te le vai a fare fuori sul Lungotevere o su Naviglio a Milano o non so in quale cazzo di paese, ma non ti fai le canne a scuola. Ma non è che ci vuole il genio per, ma come la sigaretta è uguale di, ma perché la chiavata sì, anche Manuel, quello potrebbe essere un atto scenologico, è un atto, anche quello se ti vadono è un atto scenologico. Scusami Manuel, scusami un attimo, ma non è un atto sceno, ma, cioè, se ti vado, ma io non sto dicendo canna davanti a tutti, ti sto dicendo semplicemente che le canne come le sigarette in ugual modo, uguale ufficiale, non si fuma a scuola, punto e basta. Mi pare abbastanza chiaro il perché. È un ufficio scuola, pubblico. Io penso che nel momento in cui uno è maggiorenne, comunque dispone giuridicamente della capacità d'agire, senti, però non mi fare, non mi fare, il coso, non mi fare il coso, non mi fare il paraculo. Ma a scuola non si fuma, punto e basta. Che siano canne o che siano sigarette, no, ma poi la gente lo fa, non è che va messa in galera. Dici le sigarette uguali alle canne, però i professori se le fumano, gli studenti no. Senti, che vuol dire? Manuela. Vedi che la capacità d'agire. Oh, ma che sei cretino? Anche, adesso ti sbatto il telefono in faccia se continui. No, che sei imbecille, sei. T'ho dai, detto, se... mi stai offendendo. Io non ti sto offendendo, ma che ti sei fatto una canna stasera? Ma non ti sto insultando, ti sto dicendo le canne. Del cretino. Ti sto dicendo le canne, che siano i professori, che siano gli studenti o le sigarette, secondo me a scuola non vanno fumate e non vanno fatte. Le trombate, era anche una battuta, se vuoi, però ragionandoci bene, se uno, se due ragazzi se due ragazzi scopano in bagno, se due ragazzi, non in mezzo al cortile della scuola o in classe davanti a tutti, se due ragazzi scopano in bagno, si fanno una bella sveltina, una bella chiavata e trombano, e consapevoli, maggiorenni o anche dopo i 16 anni, non cazzo è compito che nostro incentivare questa roba, non mi pare un dramma, francamente. No, non beccano, mi pare un però dramma. Ti segnalano i genitori alla presa, perché a scuola non si fa, vabbè, ma no, ma quello certo, anche quelli vanno segnalati, anche quelli vanno segnalati. Perché fermi tutti, fermi, Manuel, ho capito, ciao, ti saluto, meno canne, ciao. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo. Vibratore, vibra, non ti fermare. Parenzo. Vibratore, vibra, non ti fermare. Vi piace un mondo così? Vive nel cassetto, troppi sogni da realizzare. A me fa cagare. Noia galoppa, ti viene incontro la tecnologia. Parenzo. Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo? La Zanzara. Guarda, io ti denuncio, Denuncia, avvocati, magistratura. Parenzo, tu non hai capito ancora un cazzo. Qui non siamo nel tuo salotto di merda. Qui siamo nel Fight Club. Qui siamo sul ring della Zanzara. Quando sento i saluti di Barisoni, inizio a risvegliarmi dal torpore, perché so che sta arrivando la Zanzara. Ciao ragazzi. Attenzione, tradimento. La Zanzara. Ambeci, la fregna, ciaro, via qua. Ma chi è Manuel? Chi sono? Manuel? E che te sei cambiato pure nome, farzo? A te si intesta zitta, te gonfia tutta. Secondo voi Michele Uva si trova alla vicepresidente della UEFA perché è bello? È anche bello. Chi è che ha fatto queste operazioni? Chi? I gnomi dietro le scrivanie italiche? Da 3 anni vivo con i ragazzi. Sono stato un mese a giocare a boccette con loro in Francia. Piangono quando parlano di Carlo Tocca. Chiedete a tutti. C'è una mia lettera del 2014, l'unico primo in Europa che scrive a Blatter che vuole la tecnologia in campo. L'altro era quel signore che è morto nella RAI, non so come si chiamava, che diceva la tecnologia in campo. Biscardi. Ho rassegnato le dimissioni e come mero atto politico ho chiesto anche quelle del Consiglio federale. Nessuno le ha rassegnate, quindi sono rimaste le mie. Grande uomo di spettacolo da vecchio, caro Parenzo, oggi è arrivata. Intanto ti confermo che è una buffa la notizia della bambina che sarebbe stata calma. Allora, oggi è arrivata la notizia che è una bufala clamorosa. Oggi è arrivata la notizia che Tavecchio avrebbe molestato una signora, una dirigente della Federcalcio. L'avvocato di questa signora si chiama Michele Cianci, pare che ci siano delle prove inattaccabili, cioè dei video, dei files audio, e vediamo, sentiamo, chiamiamolo per capire se è stata presentata una denuncia o no, addirittura molestie sessuali di Tavecchio nei confronti di una signora. Sentiamo questo avvocato che mi sembra si chiama Cianci, chiamiamo, dai. Pronto? Avvocato Cianci? Sì, sono io. Buonasera, qui Radio 24, salve. Salve. Come va? La disturbo? Molto bene. Allora, lei è il legale della donna che sarebbe stata molestata da Tavecchio, no? Della signora, sì. Sì, io sì. Volevo sapere una cosa. Ci sono delle denunce che sono state presentate? No, non ci sono ancora denunce perché siccome stiamo aspettando le trascrizioni dei vari file audio... Sì? Che cosa contengono questi file? Frasi esplicite di Tavecchio nei confronti di quella signora? Dice, poi abbiamo anche un filmato, quindi in questo filmato anche... cosa si vede in questo filmato, se si può sapere? Si vedono delle violenze sessuali. Ah, delle violenze sessuali vere e proprie, cioè dire delle mani addosso di Tavecchio a questa signora? Esatto. Delle mani addosso. Ma il sino è una violenza sessuale. Non è che si vede un film porno, eh? Cioè, No. Ci sono i tempi per la denuncia oppure no? Cioè, sono avvenute le cose entro negli ultimi sei mesi? Le cose sono avvenute alcuni mesi o sono, sì. Però sono trascorsi sei mesi. Ecco, siamo oltre i termini. Siamo oltre i termini. E perché non sono state presentate prima? Questo diciamo non lo deve chiedere a me, perché io la signora l'ho conosciuta ieri. Cioè una volta che Tavecchio si è dimesso, ha deciso di rivolgersi ad un avvocato o no? Sicuramente le dimissioni di Tavecchio hanno influito sulla deposito della denuncia, perché siccome la signora è una tesserata della Federazione Gioco Calcio. È una tesserata della FIGC. Esatto, quindi essendo tesserata, diciamo, è venuto meno quel vincolo di quel timore riverenziale, diciamo, nei confronti del presidente. Cioè, dunque, lei mi sta dicendo che ha subito delle molestie anche gravi, giusto? Cioè dei tentativi. Delle violenze sessuali oltre che delle molestie. Ok, oltre che delle molestie, e fino adesso non ha depositato le denunce semplicemente perché Tavecchio era il presidente della Federcalcio, cioè era il suo presidente. La signora sicuramente non è strumentale, cioè non è che ha aspettato per fare che cosa. No, però è abbastanza curioso, per carità, noi crediamo, quando uno subisce una violenza bisogna subito credere ad una persona. Ma la curiosità è giusto che ci sia. Però è normale che uno si dimette uno e poi il giorno dopo dice no, mi ha molestato e mi ha... Allora, credo di avergli spiegato il perché. Una volta avuta quella notizia, la signora proprio si è liberata, dice finalmente adesso... Posso, comunque la cosa fondamentale che lei dice è che c'è addirittura, rispetto ad altre cose, David, c'è un video in cui Tavecchio mette le mani addosso a questa signora, giusto? Beh, questo è pazzesco. Sarebbe pazzesco. Che cosa c'è in questo video concretamente, ce lo può dire? Lei l'avrà visto sto video? Sì, l'ho visto. E che cosa c'è in questo video, avvocato? Ho detto mettere le mani addosso, palpa il seno in maniera evidente. Palpa il seno addirittura? Chi l'ha fatto sto video, scusi? La signora. Ah. Come ha fatto, scusi? C'era una telecamera nascosta, come ha fatto? No, scusi, ma è per capire, perché altrimenti... C'aveva degli strumenti. Ma anche io ho uno strumento, un telefonino. No, lui dice, non è... Non adesso voi mi chiederete perché, se aveva quindi andata lì come agente provocatore. Non è così. La signora, stiamo parlando di una mamma, sì. Quindi di una donna sposata, sì. Con figli, sì. Che è assolutamente contro la violenza, e quando si saprà chi è la signora... capirete anche diciamo perché che ha avuto conoscenza di altre situazioni, sì. Omologhe cioè ha subito altre violenze, diciamo, ha subito lei altre violenze o ci sono altre donne, conoscenza di altre donne che all'interno della Federazione Calcio hanno subito violenza, ma non so se sono molesti, se sono o altro, diciamo, perché parlare di violenza su altre persone io non mi permetto. Ma si può sapere chi è questa sapere chi è questa signora? Assolutamente no, perché fino a quando io non deposito la denuncia alla procura, sì. Certamente diciamo, mi sento responsabile di questa accusa, perché se la signora dovesse cadere da un marciapiede e essere investita da una moto, io mi sentirei comunque responsabile. Allora, scusi, mi faccia capire solo una cosa. Non ho capito, esatto. Lei teme per la morte, per la vita della signora? Teme per la vita della signora? No, io temo, avendo una responsabilità, avendo una documentazione molto forte, che non riguarda esclusivamente le molestie, ma ci sono altre cose importanti, perché la signora comunque, essendo una tesserata, è andata lì non certamente per farsi molestare, ma per parlare di lavoro, va bene, e ci sono altre situazioni in queste registrazioni, è evidente che devo fare il mio lavoro. Quindi, come no, tale, lei ha detto, se cade dal marciapiede, se viene investita, lei sì. teme che qualcuno possa attentare la vita della signora? Beh, più o meno questo è. Ma questo lo sta dicendo lei, io ho detto solamente che fino a quando non lascio la documentazione alla procura, io non mi sento sereno. Lei vedendo quel video, come lo considera il signor Tavecchio? Vedendo quei video, quei evidentemente altre prove che lei ha, altro materiale? Io considero, vedendo il video, il signor Tavecchio che è un padre, sì. un marito, sì. un nonno, sì. Un presidente della Federazione Italiana di Gioco Calcio. Una persona, diciamo, assolutamente alla quale io non gli affiderei mia figlia, assolutamente addirittura. No. Quindi, addirittura sì. Cioè, addirittura, dice, da questi video, da questo materiale esce fuori una figura di che tipo? Una figura di una persona di un maiale, un molestatore. Al di là di quello che si lei può dice. È un presidente, soprattutto Vabbè. Della Federazione Italiana Gioco Calcio, che nel suo ufficio si sente così tutelato da dover dire: stai tranquilla che questo è l'unico posto in cui si possono fare certe cose, perché viene bonificato ogni 20 giorni. Mica. Quindi, se io sento questo, non lo so che considerazione possa avere il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Che considerazione? Ma che sicuramente a lei. Cioè? Le immagini che io, quando ho visto il ragionier Tavecchio, che non è, diciamo, l'ho visto nella trasmissione delle Iene, la sera sì. prima proprio, quindi sì. domenica, allora? Mi ha fatto una tenerezza unica. Cioè, vedete un uomo che per 4 giorni piange. Sì. Ho e detto, poi invece? Questo povero uomo. E poi vedere il video ho dovuto cambiare. Addirittura. Malgrado, cioè, come lo considera adesso? Ma non è una prova così schiacciante, o sì? Ma se c'è un video, se c'è un file audio, a meno che non hanno fatto un fotomontaggio, non mi hanno dato un fotomontaggio, non mi hanno dato un falso. Quindi è una prova schiacciante. Assolutamente. È la pistola sì. fumante. Io, se avessi un mio cliente con una situazione del genere, andrei in procura e correrei a patteggiare la pena. Quindi, e lei è sicuro che sia Tavecchio? Immagino di sì. Non lo so, glielo chiedo. Ma no, ma che ma no, è normale che glielo chieda. Lei è sì, sicuro è che sia Tavecchio? E sono sicuro, perché si vede la sala dell'ufficio, si vede l'ufficio, sì. si vede la signora quando è in attesa. L'ufficio, parla solamente però, di... Vabbè, aspettiamo. L'ufficio può esserci chiunque nell'ufficio. Aspettiamo le denunce, allora. Aspettiamo le denunce. Presidente, grazie, avvocato, arrivederci. Salve. Saluti, caro. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Naturalmente. Io sono sempre d'accordo con Parenzo, ma questi hanno rotto coglioni. Esco dal supermercato un quarto d'ora fa, viene uno, si avvicina, mi dai un po' euro. Quando volevo darle da mangiare, no, voglio euro. Questi vogliono solo soldi. Donato, porco maiale, ti uccido io fra un paio di giorni, non fra 30 anni o fra 20 anni, te lo uccido io con le mie mani. Coglione, che sei un porco, sei un pezzo di merda! Ti uccido io, coglione, fra un paio di giorni! Te lo uccido io! Te lo giuro che ti uccido io, pezzo di merda! Donato di cazzo, figlio di puttana! Ah, questo qua è un muslim contro Donato! Questo è un muslim contro Donato! Al di là dei toni... Vuole ammazzare Donato? Beh, questo mi sembra... Tu dici che sta scherzando? Ma usa gli stessi argomenti che usa questo Donato da Varese, questo Mauro da Mantova, scusami. No, Mauro, ma Donato, c'entra? Donato. Ma io li confondo, perché sono due idioti... Uno forse è un idiota più sofisticato, parlo di Donato da Varese, no? Cioè un po' più articolato. L'altro è proprio un imbecille, un imbecille, lasciato dalla moglie, la figlia non gli che parla. C'entra? Ma cioè, che c'entra che è lasciato dalla moglie? Coccolà! Rimandami la corte, per cortesia, quel gatto che chiama ogni tanto, l'unico elemento di compagnia. Coccolà! Chicco! Piccolone, eccolo, il mio bel pompattolone. non esiste in realtà. Allora, notizia di queste anche ore. Anche il gatto se n'è andato, la notizia di quest'ora. Un poliziotto bolzanino avrebbe pesantemente insultato un immigrato senza tetto che si trovava accampato all'interno dell'ospedale San Maurizio. La notizia l'abbiamo diffusa noi. All'interno si trovava di una stanza del cantiere per la costruzione di una nuova area dell'ospedale. I lavoratori del cantiere si sono accorti della presenza dell'uomo, avvisando le forze dell'ordine. Feccia, pezzo di merda, prendi la coperta e vai via. L'audio degli insulti sono stati trasmessi dalla trasmissione La Zanzara. Ah, è questa la trasmissione, scusami. È questa no? È questa sì, no? Mi sembra di sì. È questa no? Sì, no, fino a prova contraria, mi pare. Abbiamo sì, acquisito il file audio, abbiamo avviato una verifica sulla vicenda, dicono dalla questura. Cioè, la questura ha avviato una la ricerca del colpevole di questi insulti, ragazzi. Molto bene. Ma non molto perdete tempo, amici miei della questura, poliziotti. Grazie alla questura, persone per bene, ottimo, su, si faccia chiarezza. Per due nello frasette, stato di diritto dai, funziona così. No, non è due frasette, loro devono tutelare non l'arma, perché non sono militari, ma no, sono civili, l'onore, esatto, quindi non l'onore di quella divisa. Il segretario, in questo sì, modo la polizia tutela l'onore di quella il divisa. Il segretario del PD Alto Atesino, un certo tipo che si chiama Alessandro Huber, dice il responsabile Uber, di questa vergogna non può passarla liscia. Bravo Huber, ma hai ragione. Ma facciamo risentire questi insulti, è tutto vero, ovviamente abbiamo le nostre, cosa vuoi far risentire? È ovvio che è così, abbiamo così le nostre fonti, che siamo tenuti a non rivelare, a non rivelare da dove a viene, a meno che non ci sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che mi auguro ci sia al più presto. Vedremo anche su mi questo, auguro vedremo, sottoponga a sequestro l'audio eccetera eccetera. Guarda, mi vede gli occhi. Ehi, pezzo di merda! Merda! Feccia, girati un attimo, feccia! Prendi la coperta, pezzo di merda, prendi la coperta! Feccia! Merda! Dai, se! Dai, non è però adesso così mi piace. Allora. Ti sembrano solo frasette a te, è scioccante riascoltarlo. Ma solo sì, frasette, vedere frasette dette in un momento di rabbia, dai su, ma no, non ma c'è quello, niente di strano, dai, ma non, sono non uomini successo in divisa, lo Stato non ha non picchiato è l'immigrato, non ha ma picchiato ci mancherebbe l'immigrato altro, ma perché alzi la posta, dai, ma perché alzi la posta, ma ci mancherebbe no, altro, ma io auguro a te di finire nelle mani della polizia che ti dicono zitto merda, voglio vedere se i tuoi non rivendichi i tuoi diritti, cioè di non essere chiamato merda, su. Allora ragazzi, abbiamo provato a chiamare nel pomeriggio l'ospedale di San Maurizio a Bolzano per vedere se il poliziotto era presente, insomma per parlare col poliziotto. Vi faccio sentire, a me mi stanno sui coglioni queste cose qua, guarda se ci penso ancora mi incazzo. Cioè ma senti che cosa è successo, no me lo sai perché c'eri anche tu al telefono, ma senti, no sentite ragazzi, sentite, siamo in Italia, senti, siamo in Italia, vi ripeto, Bolzano è Italia, sentite. Ospedale Bolzano Krankenhausbozen. Sì, buonasera, ospedale San Maurizio? Sì. Sì, no, in italiano, sa, ogni tanto si usa anche l'italiano, oltre che il tedesco, buonasera. Buonasera. Buonasera, beh, siamo in Italia o siamo in Germania, non ho capito. Siamo in Südtirol, in Alto Adige, parliamo tedesco e italiano. No, attenzione. Italiano e tedesco dovrebbe essere, siamo, comunque andiamo avanti. Siamo in Italia, non siamo in Sud Tirol, siamo in Italia, prima cosa di tutte. Poi siamo anche in Sud Tirol, perché sì, sennò esatto, mettiamo le cose a posto, va bene. Senta, mi passa un attimo, o sbaglio? Lei ha bisogno di qualcosa o voleva solo sapere le lingue che parlo? No, per carità, io mi sono stupito del fatto che lei la prima cosa che mi ha detto è non ha nemmeno detto ospedale San Maurizio, io non parlo tedesco, ha capito? Ho detto ospedale Bolzano Krankenhausbozen, signore. Ma io che ne so che cosa significa, non parlo tedesco io, signora, scusi, abbia pazienza. Comunque, ma fino adesso ho parlato in italiano, mi dica per carità, cosa... Assolutamente, mi passa il servizio di polizia là sul posto, il servizio di sicurezza per favore, il posto di polizia lì dall'ospedale. Ospedale di Bolzano, Krankenhausbozen, Elena. Aridaie. Sì, buonasera, cercavo il posto di polizia, per favore, dell'ospedale. È il posto di polizia, vedo che gliel'ha passato la mia collega, al momento non risponde. Grazie, arrivederci. Vengo, arrivederci. carità, efficienza massima. Hai visto subito la linea telefonica che prendeva subito, eccetera. Ma mi sta sul cazzo questa roba di ospedale di Bolzano. Poi vai, vai su. Dimmi, ospedale di Bolzano San Maurizio. Poi parli il tedesco. Dove sei? No? Sono del sud Tirol. Poi no, sei Italia. Poi sud Italia. Italia, Mohamed, Milano, dai. Mohamed, vado ai matti io, Mohamed. Buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Volevo intervenire per riguardo all'argomento che viene accusato di Islam, che consente matrimonio. Sì, la notizia non è sicura, alcuni dicono sia una colossale bufala. No, è una fake news. Non è che Ivano sia sicura o meno, è una cosa proprio fondamentalmente sbagliata. Perché ma cosa sbagliata? Cos'è sbagliato? Non ho capito. Sbagliato che l'Islam ha delle regole che riguardano il matrimonio. Senti, in alcuni paesi, in alcune situazioni, in alcune zone sono previsti. Ma lascia perdere, però è vero che in alcune situazioni. Ma sì, vedremo, ma se è falsa. Vedremo. No, vedremo. No, è stato confermato che è falsa. Una fake news clamorosa. In questo caso, se sono paesi o persone individuali commettono le loro azioni, quindi questa referenza a loro stessi, ma quando si dice l'Islam, quindi bisogna per l'ennesima volta, dico che bisogna capire quali sono le regole, e le regole dell'Islam proprio hanno specificato. Sì, vabbè, amico mio, in molti paesi ci sono da maggiorenne iniziando adulto. Sì, ma quello che è scritto è scritto, va bene, però nella pratica, scritto letteralmente. Sì, Mohamed, però amico mio, musli, mentre maggiorenne è anche il ragazzo. Sì, Mohamed, dipende da paese a paese, amico mio. Alcuni paesi, esatto, non c'entra l'Islam, non c'entra il Corano. Ah, no. Legge di paese, non sono leggi, sì, di Corano, però ti voglio dire una. Sì, ma ho capito, cosa. Però in alcune zone è chiaro che ci sono matrimoni, è evidente, è stato provato che ci sono matrimoni con bambine. Non dobbiamo dire l'Islam. Ma come no? Ma che religione è che seguono quelli là? Che religione seguono quelli? A Muslim? Allora, e dai. Uno segue religione una cosa, ma addirittura cazzo può fare anche altra cosa. E va bene, d'accordo, ma quelli sono Muslim. Sono Muslim. Sono Muslim. Sono muslim, non mi pare che la religione islamica si opponga ai matrimoni con le bambine. In molti paesi, si fanno i matrimoni con ma le bambine. Regimi, e questi diciamo la verità. Io vivo qua da tanti anni, è inutile raccontare barzellette. Sappiamo bene che la gente ha in testa questa cosa e proprio lo abbia. Per mancanza di chiarezze, per mancanza di correttezza, vabbè. Perché la gente ha Antonio paura. Da Vicenza, ho capito, Antonio da Vicenza, dai, Antonio. Tanto non mi convincerete mai. Allora, vai, Antonio, dimmi. Niente, io volevo chiedervi, ma secondo voi, no, è giusto che quei cavoli di vigili che sono stati beccati, che timbravano il cartellino e poi andavano al bar, o quegli impiegati comunali o impiegati statali che timbravano e andavano a mangiare al bar? Oggi ne è stato licenziato uno a Roma, mi sembra. Cioè, tra oggi l'altro. Uno a Roma. Ma tutti quelli che l'hanno fatto fino adesso, che non gli hanno fatto vabbè, un ma che capo. C'entra adesso, scusa, spiegami. E poi se la prendono, gli danno metà stipendio a un poliziotto, perché ha dichiarato gente di merda, che lo dico anch'io gente di merda quando vedo uno che vabbè, va incontro umano. Tu non sei un poliziotto però, in teoria. Per cui carità, va bene. Ma guarda che io sono contrario contro questa sanzione, bastava una cosa molto più semplice, non ridurre una persona, prima sospenderlo e poi dargli metà stipendio, dai, è ridicolo, no? Per aver detto una frasetta, per avere fatto un video che peraltro non ha manco diffuso lui, poi il video è stato diffuso, eccetera, eccetera. Va bene, Antonio, ciao, Barbara da Roma, vai. Pronto? Dimmi. Ciao, buonasera sì. A voi. Senti, una cosa volevo chiedervi. Secondo voi è facile per una persona essere creduta quando dice che è stata molestata? Beh, no. Bisogna portare delle prove, bisogna denunciare, bisogna fare quello che bisogna fare. Poi certo uno può anche avere paura di denunciare, ci possono essere tanti casi, i casi più disparati. Perché lo dici, Barbara? Non ho capito. Lo dico perché nella vostra chiacchierata con D'Agostino, quello che emergeva, Cruciani, è che purtroppo c'è una reticenza nel pensare che chi denuncia lo fa per dei fini che non siano quelli di, se non di difendersi. Guardate che denunciare è difficilissimo. Ma perché ne parli? Guardate, perché ne parli? Perché ne parlo per esperienza diretta? No, Cruciani, ne parlo per un'esperienza semidiretta. Cioè? Io ho 40 anni, ho una sorella che ha subito delle violenze. Sì. Noi non ce ne siamo accorti a livello familiare, questa cosa è venuta fuori dopo tanto tempo. La paura di denunciare, sai cosa rimanda? Rimanda alla sensazione di colpa, al senso di colpa, al senso di sporco che uno ha dentro. No, di ma io sono assolutamente consapevole di questo. Scusami, assolutamente. Sei un uomo intelligente, quindi mi devi ascoltare un attimo. No, ma poi io lo capisco. Che dunque, che vuol dire? Che cosa vuoi dire con questo? Spiegami. Voglio dire che chi, le ragazze che denunciano, per esempio la signora, intervento che c'è stato prima dell'avvocato, è un intervento particolare. Questa signora è molto fortunata perché ha la possibilità di denunciare quando quello si è tolto dai coglioni, perché come uomo molto importante lei sicuramente non poteva intervenire a sua difesa. Questo, infatti, riuscire a denunciare, ascoltami bene Cruciani, puoi fare quel cazzo che ti pare nella tua trasmissione, a riuscire a denunciare è veramente faticoso. E io lo dico non da donna sì, di ma molte vanno con le persone, molte vanno con le persone e utilizzano il proprio corpo per il successo, per ottenere una parte, per ottenere Cruciani, un po', è così, la realtà è questa. Ascoltami, cioè... Cruciani, vai oltre, sei un uomo troppo intelligente. Che vuol dire raffinato. Vado oltre? No. Vai oltre a quello che hai detto. Vado oltre, andiamo oltre, avanti. Vai dunque, oltre, le ragazze che vanno, come dici tu, per fare carriera, ok, questo sono, da, ovvio, da una vita è così, dunque? Benissimo, allora cosa fai? Giustifichi un uomo che a un certo punto si prende delle libertà che non deve prendersi. Se quelle ragazze... Ma tua che sorella che è famosa? Hanno... Non ho capito, tua sorella è famosa? No. Vabbè, non te lo dirò mai. Non te lo dirò mai. Allora che cazzo hai chiamato a fare se non me lo vuoi dire? Io non devo parlare di mia sorella, Cruciani. Io sto parlando di questa situazione. O mi vuoi ascoltare? Ma o ti no, sto ascoltando, però. Ma no, ma è un minuto e mezzo che non hai detto. Bisogna distinguere tra le situazioni. Una cosa molto chiara, è difficile, Cruciani, qualche volta denunciare. Lo sappiamo, tutte cose che già sapevamo. Non è che il tuo intervento ci ha illuminato. Sai cosa non è? Non mi hai illuminato, amica mia, non mi hai illuminato. Va bene, ciao, vuol dire che non sono arrivato al obiettivo. Non mi hai illuminato, ciao. Va bene. Ciao ragazzi, a domani. Merdosi! Ciao a tutti, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ospedale Bolzano Krankenhaus.